Milan deve concentrarsi sul secondo posto, perché è facile che la Roma glielo porti via, perché sembrava anche la Roma destinata un po' a rallentare, perché normalmente una squadra che infila una serie di risultati positivi così lunga e così importante fa sempre un passo falso. La Roma ha fatto qualche mezzo passo falso, ha fatto un mezzo passo falso a Livorno, però certo. Insomma complessivamente sta meglio, probabilmente ha più entusiasmo perché è in una situazione particolare, e anche la Roma per come era iniziata la stagione probabilmente non aveva mai pensato di trovarsi così in alto. Ah, ma certo, ma non hai anche tu l'impressione che la Roma stia un po' meglio rispetto alla partita con il Milan? Ha fatto qualche partita un po' difficile nonostante i risultati sono sempre stati positivi, ricordo la partita vinta 1-0 in casa con il Catania, ricordo una serie di gare poco brillanti della Roma fino a quella col Milan, poi c'è stato il 3-3 di Livorno, è stata una partita stranissima, adesso anche a guardarla ieri sera mi sembra che la Roma abbia ricominciato a correre. Sì, soprattutto ha ricominciato a correre e soprattutto ha la capacità che il Milan non ha, storicamente secondo me non ha e a maggior ragione non ha avuto negli ultimi tempi, di vincere anche le partite nelle quali stenta, cioè sì. È abbastanza difficile che il Milan vinca una partita se non gioca bene perlomeno per un tempo, molto spesso invece le squadre, e questo è un punto di forza, riescono anche a giocare così così, andare in difficoltà, a non essere diciamo in palla da portare a casa il risultato. Questo al Milan di Leonardo non è riuscito, però non riusciva nemmeno al Milan di Ancelotti, sì, ecco, sì, quindi benissimo. Sinceramente io seguo il Milan ormai da tanti anni e non ricordo negli ultimi tempi di aver visto tante volte il Milan vincere le partite che ha stentato, certo. Ha avuto difficoltà, è capitato, ha avuto tantissimi colpi di fortuna, ma il colpo di fortuna è una cosa e la capacità di il cinismo vincere, è un'altra, esattamente, forse è questo che manca a loro.